Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson, capitolo 17. Fu Hennessy, il giornalista, a portarmi via da quell'orribile luogo di morte. Ero così sconvolta e mi sentivo tanto sola che avrei gradito la compagnia di chiunque. Egli non manifestò compassione, né si abbandonò a sentimentalismi. Sotto quella ruvida scorza si indovinava un'amabilità sincera. «Andiamo, signorina Thompson», disse. «Vorrei che veniste al giornale per aiutarmi a scrivere questa storia. Prese in affitto per me un monolocale in North Dearborn Street, vicino a Bughouse Square. L'impiccagione dei banditi che avevano rapinato l'hotel Drake e la storia di Bigotto, della sua donna e del figlio che stava per mettere al mondo riempirono i giornali del pomeriggio. Il giorno seguente cominciai a ricevere lettere, montagne di lettere, 21 delle quali contenevano proposte di matrimonio. Hennessy fu molto gentile e mi portò spesso in giro con sé anche al circolo della stampa. I frequentatori del circolo erano un branco di scavezzacollo, simpatici e impudenti. Alcuni mi consigliavano di darmi al giornalismo, ma io respinsi l'idea. Non ora, dissi, forse dopo che avrò avuto il bambino. Ricevetti diverse offerte di lavoro e mi fu chiesto più volte di tenere conferenze. Un giorno Hennessy mi presentò un certo Jack Jones, un tale con i capelli tutti arruffati, l'impresario del Dill Pickle Club. Sembrava un matto, ma aveva un'aria sincera, convincente. «Boxcar Berta, vorremmo che tu venissi a parlare al Dill Pickle Club», disse. «L'argomento potrebbe essere che cosa deve fare una ragazza madre, partorire, abortire o suicidarsi. Lo so, Berta, che non state pensando né all'aborto né al suicidio, ma molte donne nelle tue condizioni ci pensano. Conosco tua madre e so qualcosa di te. La tua vecchia fiamma, Franklin Jordan, è un mio grande amico. Abbiamo fatto tanti scioperi insieme e abbiamo diviso la galera. Hai una storia da raccontare. Hai avuto delle esperienze, non hai un marito, eppure metterai al mondo un figlio. Che cosa provi all'idea?» Whale, il giallo, è venuto al Dill Pickle a spiegare che cosa si prova a fare gli abbindolatori. Lizzie Davis ci ha descritto la sua esperienza di mendicante. Un certo Ted Abara ci ha raccontato la sua vita da omosessuale. Vogliamo che la gente che ha avuto esperienze fuori dal comune venga al Dill Pickle e ne parli. Una donna sposata o un'ostetrica non potrebbero raccontare una storia come la tua. Qualcuno potrà anche avere da obiettare e ci potranno essere delle proteste. Verrai? L'idea di esibire in quel modo me stessa e il figlio che doveva ancora nascere non mi piaceva troppo, ma alla fine acconsentii. Hennessy mi accompagnò. La sala era piena. Fu annunciato un certo Roxy, incaricato di presiedere la conferenza. Questi ebbe l'idea di presentarmi leggendo una poesia di Voltaire de Clare, intitolata Bastardo. «Perché mi vesti con il colore scarlatto della vergogna? Perché mi additi al disprezzo? Qual è la colpa per la quale mi schernisci quando mi sibili all'orecchio bastardo?» Roxy lesse soltanto i primi quattro versi, poi scoppiò un putiferio. Volarono uova e ortaggi, risuonarono voci di protesta e la riunione si tramutò in una rissa. Nel mezzo della sala John Barnes per metà ubriaco di whisky e per metà fremente di cattolica indignazione, tuonava e lanciava anatemi a destra e a sinistra. Il Dill Pickle Club ne ha avuto abbastanza di questi infami soggetti, di queste vergogne, gridò. Abbiamo parlato di pederasti e di criminali, ma questo è troppo, anche per me. Prendere una donna che sta per diventare madre e costringerla a raccontare i fatti suoi. La gente è venuta perché è affamata di volgarità, non perché ha voglia di imparare. Non gliene frega niente di come vive Boxcar Berta, se si suiciderà o farà la prostituta. Ho contribuito a mettere in piedi il Dill Pickle. Per Dio, non ho intenzione di lasciarlo sputtanare da un branco di incompetenti. In cerca di notorietà. Di Boxcar Berta non so nulla, ma Jones e Roxy, quegli altri ignobili sfruttatori delle miserie e delle sofferenze altrui, dovrebbero essere buttati nel lago. La polizia fece sgomberare la sala e io me ne tornai a casa, non senza un certo sollievo. Vennero anche Hennessy e un suo amico. Volevano sapere che cosa avevo intenzione di fare a proposito del bambino e l'amico mi suggerì di partorire al policlinico. Così andai a farmi visitare dal dottore Charles Bacon, assistente di ostetricia al policlinico. Memore di ciò che mi aveva detto il medico dell'Owendale, raccontai al dottor Bacon della mia malattia e accennai alla probabile necessità di sottopormi a una cura prima del parto. Il dottore fu gentile e cordiale e mi fece sentire subito meglio non appena cominciò a parlare. «Che cosa state facendo attualmente?» si informò. «Volendo, potreste venire a lavorare in ospedale. Credo di potervi trovare un posto. Così potreste sottoporvi alle cure e al tempo stesso guadagnare qualche soldo. Credo vi farebbe piacere sapere che vostro figlio si è pagato la retta e non è venuto al mondo chiedendo la carità». Poi mi presentò al professor Maximilian Herzog, direttore del laboratorio di patologia del policlinico. Era un uomo basso e corpulento, dall'aria un po' boriosa, con un grande ciuffo di capelli rossi. «Abbiamo bisogno di una inserviente in laboratorio», disse. «Il ragazzo che c'era prima è diventato così bravo che adesso studia medicina. Voglio qualcuno che faccia le pulizie in silenzio. Quel ragazzo non stava zitto un momento. Vi daremo vitto, alloggio e $6 la settimana. Quando sarà il momento di partorire, il dottor Bacon si occuperà di voi e potrete scendere in clinica tutti i giorni per le cure». Il dottor Herzog aveva un fare burbero e pratico, ma era evidente che né lui né il dottor Bacon ritenevano che vi fosse alcunché di strano nella mia gravidanza o nella mia malattia. Ero raggiante di gioia. Improvvisamente mi sentii come se mi avessero dato la possibilità di iniziare una nuova vita e come se il mio bambino fosse toccato in sorte in un inizio migliore di quello che avevo sperato. Il policlinico era un istituto post-universitario dove i medici di provincia venivano a specializzarsi. Il dottor Herzog insegnava tecnica di laboratorio. Io dovevo tenere pulito il laboratorio e fungere da assistente generica. Mi innamorai di quel lavoro fin dal primo istante. Imparai a colorare i vetrini per gli esami della gonorrea e della tubercolosi, a fare gli esami microscopici in campo scuro e a montare i preparati per gli esami istologici e patologici. Il dottor Herzog disse che ero nato per lavorare in un laboratorio e in capo a un mese riuscì a rendermi veramente utile. I corsi erano frequentati da un buon numero di medici e tra questi vi era anche il dottor A.H. Wright, di New Hampton, nello Iowa, che aveva conosciuto la mamma e che mi invitò a casa sua a conoscere sua moglie. Il dottor Herzog tenne un corso di tecnica elementare di laboratorio sugli esami del sangue, degli essudati purulenti e dei tessuti. Ascoltai le stesse lezioni per 6 volte e presi sempre appunti. Un mattino gli studenti erano già riuniti in laboratorio in attesa della lezione. Il dottore arrivò un po' in ritardo e si diresse affannosamente verso il suo studio, frugandosi nelle tasche, ma ad un tratto si bloccò stizzito. «Donnerwetter!» imprecò. «Ho dimenticato le chiavi. Senza chiavi non poteva entrare nel suo studio privato dove teneva i microscopi. Dovette perciò tornare a casa a circa 3 chilometri dall'ospedale. Gli altri medici chiacchierarono un po', poi cominciarono a dare segni di impazienza. Ridendo per ciò che un altro gli aveva detto, il dottor White mi chiamò. «Berta, perché non ci fai lezione tu? Ne sai quanto lui!» Esitai per un attimo, poi mi resi conto che volevano divertirsi. Perché no? Avevo intrattenuto molti uomini in modi assai più difficili. Sfogliai gli appunti, trovai il maggior numero possibile di paroloni, atteggiai il viso a un'espressione solenne e cominciai. Signori, il neutrofilo polimorfo nucleare leucocita allunga i suoi pseudopodi e fagocita i batteri. Le risa fragorose dei presenti si interruppero all'arrivo del dottor Herzog, che piombò nel laboratorio, si guardò intorno nervosamente, salì in cattedra e mi fece cenno di tacere. «Signori», tuonò, «non date l'eretta, è soltanto la mia Dienstmädchen». Finché rimasi al policlinico non uscì spesso. Andai soltanto a una veglia e a un battesimo e fui invitato a una festa. Una sera, dopo una lunga giornata di lavoro nel laboratorio, passeggiavo in riva al lago. D'un tratto mi si affiancò un'auto e suonò il clacson. Alzai lo sguardo ed ebbi la lieta sorpresa di vedere la mia vecchia amica del Globe, Catherine, con il suo nuovo protettore, Johnny Mangates. Il padre di Johnny era morto e i due stavano andando alla veglia, perciò mi portarono con loro. Catherine sedette di dietro con me, così potemmo chiacchierare. Il mio protettore di prima, Scotty, che faceva il secondino nel carcere della contea, si è fatto beccare a portar dentro della droga per un detenuto. «Deve farsi 5 anni ad Atlanta», mi disse. «Sto con Johnny da 5 mesi, è un tipo in gamba e mi dà tutto quello che voglio». Guardai i vestiti lisi e di poco prezzo che indossava e provai compassione per lei. Che storia vecchia era la sua. L'auto fermò davanti a una casa di legno, ridipinta di fresco, nel cuore del quartiere italiano, tra la 14ª strada e Racine Avenue. Johnny ci fece strada su per le scale. L'appartamento era affollato di parenti e vicini. La bara in cui giaceva Nick Mangates, il padre di Johnny, era esposta in salotto. Il defunto, un uomo di circa 60 anni, aveva un'aria serena, solenne. Era immigrato in America 38 anni prima e per 35 anni aveva lavorato come operaio per la Crate Company. Si era sposato e aveva avuto 12 figli. Johnny era l'11esimo. Sul divano sedeva Mary Mangates. Aveva vissuto con Nick per oltre 30 anni e aveva allevato i suoi 12 figli nel cuore degli slum di Chicago, nel quartiere che i sociologi definivano una delle zone a più alto tasso di delinquenza giovanile, criminalità e omicidi di tutta l'America. Dei 12 figli, 11 erano cresciuti bene, erano diventati lavoratori bravi e onesti. Johnny era l'unica mela marcia della famiglia. All'età di 10 anni aveva perduto il braccio sinistro, che era rimasto schiacciato sotto un blocco di ghiaccio caduto da un carro sul quale stava scroccando un passaggio. Il funzionario scolastico, che controllava le assenze ingiustificate, veniva spesso a casa dei Mangates. Johnny non aveva ancora 12 anni quando il tribunale dei minori aveva dovuto occuparsi di lui. La sua unica vera scuola era stato il riformatorio Pontiac, dove aveva scontato 3 anni. Era diventato un ladruncolo, un borseggiatore, un topo d'appartamento. Poi aveva seguito un corso di specializzazione al penitenziario Joliet. I suoi genitori le avevano sempre spalleggiato. La casa in Racine Avenue, che il vecchio Mangates aveva impiegato un quarto di secolo a pagare, era stata ipotecata decine di volte per versare le cauzioni di Johnny. Ma in fondo i Mangates erano una famiglia di conservatori. Così, dopo l'esperienza del penitenziario, Johnny si era ravveduto ed era andato a lavorare in una casa da gioco. Ma a un certo punto la situazione si era fatta troppo scottante e Johnny aveva perduto l'impiego. Allora si era fatto assumere come accalappiatore del sindacato che gestiva il racket del vizio nel West Side. Quando il secondino di Catherine era andato in vacanza al sud, Johnny si era trasferito da lei. Dopo di noi arrivò Angelo, il fratello di Johnny, che viveva a Boston. Baciò devotamente la madre, poi si avvicinò al padre, lo baciò sulla fronte con atteggiamento reverente e si inginocchiò accanto alla bara. A uno tutti i figli seguirono l'esempio del fratello maggiore. Catherine si inginocchiò accanto a Johnny, sul lato corto della bara. Qualcuno cominciò a singhiozzare forte e tutti pronunciarono qualche parola di circostanza. Mi inginocchiai anch'io, come gli altri, e udii Catherine che sussurrava al suo uomo: «Johnny, Johnny, ti prego, non mandarmi più a battere». Naturalmente, di lì a una settimana, ogni cosa era tornata come prima. Catherine batteva come al solito e dava i soldi a Johnny. Un giorno, passando per il reparto maternità dell'ospedale, incontrai Etna. Sua sorella aveva partorito il giorno prima e nel giro di una settimana ci sarebbe stato il battesimo. Etna mi invitò. Avrei rivisto un sacco di gente della vecchia banda. «Adotterò io la bambina», mi disse. «L'uomo di mia sorella, Bennett, non ne vuole sapere. Si è infuriato perché lei non se n'è liberata». Etna aveva quattro sorelle e un fratello. Tre sorelle battevano. «Sai, nella nostra famiglia le cose non sono andate mai tanto bene», mi disse. «Anche prima di entrare nel giro, cioè più di 10 anni fa, quando lavoravo in fabbrica, mi davo già parecchio da fare con gli uomini e una volta ci sono rimasta. Quando ho partorito, i miei mi hanno sbattuto fuori di casa, perciò ho dovuto dare via il bambino. Poi Pat mi ha tirato nel giro e abbiamo messo su un posto in Blue Island Avenue. Mia sorella Tuz ha visto che battevo ed è venuta a lavorare con me. La polizia ci ha beccate e quando è saltato fuori che Tuz non era ancora 18enne mi hanno appioppato un anno per avviamento di minore. Tuz ha avuto un bambino mentre era in galera e l'ha dato via perché fosse adottato. I vecchi hanno sbattuto anche lei fuori di casa. Quando sono uscita di prigione sono andata a lavorare da Gary, la mia seconda sorella. Evelyn veniva a trovarmi spesso. Io le davo un po' di soldi da portare a casa. Un giorno mi ha detto che aspettava un bambino. I vecchi l'hanno saputo e hanno sbattuto fuori anche lei. L'abbiamo fatta ricoverare in un ospedale cattolico. Ha partorito e le suore hanno trovato qualcuno che adottasse il bambino. Mia madre e mio padre ci hanno buttato fuori di casa tutte quante, ma adesso siamo noi che li manteniamo facendo le puttane. Ma questa bambina non l'avranno degli estranei. La adotterò legalmente e me la terrò stretta. Nessun magnaccia, nessun uomo al mondo riuscirà a portarmela via. Voglio avere una figlia tutta per me, di cui prendermi cura proprio come farai tu». Pensai anch'io, con selvaggia determinazione, al mio bambino e come l'avrei tenuto stretto, lottando contro il mondo intero se necessario. Pensai a mio padre che mi aveva abbandonato e dissi a me stessa che nulla avrebbe potuto mai separarmi dal mio bambino, una volta che fosse nato. Poi chiesi a Etna del battesimo. «Credevo che i bambini si battezzassero in chiesa», dissi. Forse, ma questo battesimo lo faremo in casa di Rosita e non ci saranno preti né predicatori, né sorveglianti né funzionari dell'ufficio adozioni. Battezzeremo la bambina come si fa con le navi, con una bottiglia di champagne. Ho sborsato $10 per una bottiglia di mum. L'appartamento di Rosita, la polacca, sulla North Avenue, ospitava una piccola casa. Ci lavoravano 3 ragazze. Il sabato sera è sempre il momento migliore per un bordello, ma quella volta Rosita chiuse bottega. Non avrei mai pensato che un appartamento di 6 locali potesse contenere tanta gente, eppure ci entrarono 200 persone tra uomini, donne e bambini. Era tutta gente del giro, compresi i bambini. I più piccoli erano in braccio ai genitori, prostitute, magnacce e ladri. La piccola Shirley, così fu battezzata la bambina, ricevette vestitini, scarpine e calzine sufficienti per 10 anni, perché i sostenitori, come Etna chiamava i taccheggiatori, si erano divertiti come matti a fare incetta di capi di abbigliamento per bambina nei negozi specializzati e avevano lasciato le etichette dei prezzi sui regali, perché tra ladri è un segno di distinzione far sapere che si è capaci di rubare oggetti costosi. Tra le altre cose c'erano 4 carrozzine. È uno scherzo portarle via, mi confidò una donna. Basta entrare in un negozio qualsiasi, spingerne una fuori sul marciapiede ed è fatta. Metà dei presenti erano ladri, ma si parlò poco o nulla di lavoro. Di tanto in tanto si accennò ad amici assenti perché in carcere, ma in generale la conversazione fu innocente come quella di una scampagnata domenicale. Non si udivano storielle volgari, nessuna si concesse eccessiva libertà. Fu un piacere constatare in quale clima di morigeratezza e pulizia si svolgeva la riunione. Nulla a che vedere con le feste selvagge e ubriacone di Edith Adams o con le folli orge di topi. I ladri vestono sempre con modestia e sobrietà, sia al lavoro che in società. Ma quella sera erano a casa loro, tra amici. Per il battesimo di Shirley le ragazze sfoggiavano i capi più lussuosi, sgargianti e appariscenti del loro guardaroba. La cerimonia del battesimo fu officiata da un vero sacerdote, il reverendo Archibald Smith. Il reverendo era stato ministro della Chiesa Battista, ma poi era stato coinvolto in loschi traffici immobiliari. Ora lavorava con una banda di truffatori e si faceva 30 grani di morfina al giorno. Per l'occasione aveva indossato l'abito talare e persino un cilindro. Inoltre si era fatto di droga fino alle orecchie ed era lanciato come un razzo. Tenendo la bottiglia di champagne sulla spalla, cominciò: «Amici, siamo riuniti qui stasera per festeggiare l'arrivo di Shirley, gioia e orgoglio di Big Etna», prevedendo con quale amore materno. Improvvisamente qualcuno lanciò un grido: «La madama, sotterrate il malloppo!» Le mani si infilavano rapido nelle tasche e i regali di Shirley furono pigiati alla rinfusa nei cassetti. Vidi 2 ragazze che nascondevano le siringhe nel pianoforte. «Quei bastardi», disse Rosita, «che diritto hanno di venire in casa mia? Sono una donna rispettabile che sta dando una festa». Entrarono il tenente Daniels della Buon Costume, il sergente Johnson della sezione investigativa e 3 agenti in borghese che tutti i presenti conoscevano bene. Il tenente estrasse la pistola. «Che nessuno si muova», disse. «Ho un mandato di perquisizione e voglio vedere se è qui». Le facce dei poliziotti erano severe e tutti restammo con il fiato sospeso. Si avvicinarono a Big Etna, che teneva in braccio la bambina. Pistola alla mano, il tenente Daniels si rivolse a uno degli uomini. «È questa la festa?» domandò seccamente. «Sì. Come si chiama la piccola?» «Shirley». «Bene, Shirley», dichiarò solennemente il tenente Daniels. «Ti consiglio di arrenderti. Cominci presto. Eccoti un libretto di risparmio con un deposito di $100 da parte del signor Myers della Cosmopolitan Bank. E ora da bere per tutti, Mike ne sta portando su due casse. Libri ribelli. Libri ribelli.